Questo è un podcast di Rivista Militare. Non varcate quella soglia. Il tabù sull'atomica regge ancora? Di Giampaolo Cadalano. Mikhail Gorbaciov e Ronald Reagan lo avevano sottolineato assieme al summit di Ginevra del 1985, sorprendendo il mondo con un punto di vista comune. Una guerra nucleare non può essere vinta e perciò non deve mai essere combattuta. Vale la pena di ricordarlo quando ormai manca pochissimo al 5 febbraio, data di scadenza del trattato START, che limita il numero di testate nucleari e di vettori schierati da Stati Uniti e Russia. Vladimir Putin ha proposto il rinnovo di un anno. Donald Trump ha risposto sottolineando che è una buona idea e in questi giorni l'accordo potrebbe essere già firmato. Forse, dopo tutto, il monito di Albert Einstein sull'inevitabile ritorno alla preistoria dopo una terza guerra mondiale non è caduto nel vuoto. Nei mesi scorsi, a dire il vero, qualche segnale preoccupante c'era stato. Quello che negli anni 90 Nina Tannenwald della Brown University aveva felicemente definito il tabù nucleare è apparso meno solido. Fra le cause di questo progressivo indebolimento c'è senz'altro la lontananza nel tempo di ogni esperienza diretta, visto che il ricordo dell'unico utilizzo militare dell'atomica si sbiadisce con la scomparsa degli ultimi Ibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Questo vale per statisti e uomini politici. Il settimanale The Economist ha ricordato che la regina Elisabetta era l'ultimo capo di Stato ad avere vissuto la guerra in prima persona, servendo come ausiliaria nei corpi femminili delle forze britanniche. La percezione del pericolo globale è cambiata al punto che persino in Giappone, cioè nell'unico paese che ha sperimentato l'effetto della bomba nella carne dei suoi cittadini, si è riparlato di una possibile disponibilità. A reintrodurre il tema era stato Shinzo Abe, più volte primo ministro fino al 2020, poi assassinato nel 2022. Dopo l'intervento russo in Ucraina e in vista di una possibile offensiva cinese su Taiwan e della disponibilità di armi atomiche da parte del regime nordcoreano, Abe aveva sottolineato la necessità di riaprire la discussione, ipotizzando l'accesso di Tokyo a un programma di nuclear sharing come quello della NATO. La proposta di Abe aveva suscitato reazioni molto critiche in Giappone e non ha avuto seguiti concreti. Il paese continua a restare sotto l'ombrello nucleare degli Stati Uniti, attenendosi ormai da decenni ai tre principi per cui non produce, non possiede armi atomiche e non ne autorizza la presenza sul suo territorio. Ma l'iniziativa di Abe è stata comunque significativa, un'incrinatura percettibile della barriera psicologica che sembrava consolidata. In Europa il dibattito è forse meno delicato e si è parlato di una possibile condivisione degli armamenti atomici del Regno Unito, limitati nel numero, concentrati soprattutto sui missili caricati a bordo dei sommergibili, e della Francia, che secondo la Federazione degli Scienziati Americani possiede 290 testate montate su missili strategici. Il presidente Emmanuel Macron lascia intendere che l'arsenale di Parigi può inserirsi nella difesa comune europea. Ma nei fatti la condivisione sarebbe solo in termini di ombrello difensivo. Il controllo e dunque le decisioni ultime, cioè le dita sui pulsanti di lancio, resterebbe francese. L'Eliseo, in pratica, segue la linea tradizionale di Charles de Gaulle. Quest'ultimo, già nel 1964, aveva avvertito che la Francia si sarebbe sentita minacciata direttamente e quindi avrebbe potuto ricorrere all'arma atomica se, per esempio, l'Unione Sovietica avesse attaccato la Germania. L'avvio di un dibattito più spregiudicato ha portato a insinuarsi fra i politici e gli stati maggiori un'idea quasi inconfessabile ma affascinante, che in fondo l'uso di armamenti nucleari, meglio ancora se con un primo colpo, cioè senza aspettare un'iniziativa altrui ma con l'intento di decapitare il nemico, non si debba escludere del tutto. E ad attrarre non è tanto la logica della deterrenza, che ovviamente perderebbe efficacia se fosse sancito in modo irrevocabile il rifiuto dell'atomica. In realtà, le potenze hanno un codice autoimposto, cioè la cosiddetta dottrina nucleare, che chiarisce in quali casi considerano utilizzabili questi arsenali. La Cina, per esempio, ha preso l'impegno di non usarli per prima. La Russia, fino al 2024, li intendeva come soluzione estrema se si è minacciata l'esistenza dello Stato, quale che fosse il significato di questa espressione. Nel novembre 2024, Mosca ha rivisto la dottrina abbassandone la soglia. Oggi se ne riserva l'uso di fronte a minacce critiche alla sovranità e integrità territoriale della Federazione o dei suoi alleati, Bielorussia in particolare. Di fatto ne ammette la possibilità anche di fronte ad attacchi con armamenti tradizionali, se lanciati da paesi non nucleari sostenuti da potenze nucleari. Il riferimento al conflitto in Ucraina appare palese. Nell'ultima revisione della postura nucleare, datata 2022, gli USA si sono dichiarati pronti all'utilizzo per difendere gli interessi vitali di Stati Uniti o partner e alleati, ribadendo però che non useranno questi armamenti verso paesi firmatari del trattato di non proliferazione che siano adempienti sui propri impegni. Ma nei mesi scorsi il Pentagono ha segnalato la necessità di un adeguamento verso un approccio più flessibile, garantito da una modernizzazione degli arsenali, con adeguamento delle bombe B-61 alla versione B-61-13, ma anche un maggior controllo delle escalation. Sulla carta, a parte la scadenza dello START, poco è cambiato. Ma a mutare lo scenario e dunque a far sembrare appetibile o quantomeno praticabile l'idea di uno scontro nucleare è la disponibilità di ordigni cosiddetti tattici, cioè a potenza ridotta. In altre parole, chi suggerisce questa ipotesi non propone l'utilizzo delle armi da fine del mondo, i missili balistici a testata multipla che condurrebbero senza dubbio all'Armageddon, alla distruzione globale e con tutta probabilità alla scomparsa della civiltà umana, se non della vita sul pianeta. La tentazione viene invece da armi di potenza limitata, che nelle intenzioni di qualche generale in preda a sindrome da dottor Stranamore, potrebbero servire a eliminare massicci assembramenti di truppe o sistemi d'armamento. In teoria, questo scenario potrebbe adattarsi a un ipotetico scontro tra forze della NATO e Russia nelle pianure dell'Europa centrale. Come è ovvio, questa prospettiva soffre di almeno due errori di visione, due dimenticanze che rendono ogni ragionamento sul tema del tutto fuorviante. Il primo, il più banale, non prende in considerazione che le bombe a potenza ridotta sono comunque molto più devastanti di quelle che hanno raso al suolo ampie porzioni delle città giapponesi colpite nel 1945, uccidendo oltre 200.000 persone. È quasi inutile aggiungere che le sofferenze delle vittime sarebbero quantomeno paragonabili e non ci sarebbe alcuna possibile certezza sulla salvaguardia dei civili. Ma è soprattutto una seconda obiezione a rendere evidenti i limiti della proposta. Non esiste nessuna garanzia, ed è anzi risibile aspettarsela, che la potenza colpita dalle armi tattiche mantenga un criterio di proporzionalità nel conflitto e rimanga su un livello di rappresaglia moderato, rinunciando quindi a dar via a un'escalation dall'esito impronunciabile. Se volessimo fare un parallelo un po' triviale, sarebbe come una baruffa tra due ubriachi che fanno a pugni e spintoni e all'improvviso uno di loro estrae un temperino, badando però a sottolineare che ha una lama di piccole dimensioni. La pretesa che l'opponente non ricorra a un coltello più grande o a armi più letali apparirebbe appunto frutto di ubriachezza, talmente fuori luogo da suscitare il sorriso. Insomma, per uscire dal parallelo, immaginare che all'uso di un'arma nucleare ridotta non segua una reazione di maggiori dimensioni non è nemmeno una speranza, ma un'illusione del tutto slegata dall'esperienza di ogni conflitto. È invece facile prevedere che nella confusione dello scontro, con la percezione del danno subito mai del tutto precisa e la paura di nuovi attacchi, la parte colpita avrebbe poco spazio per razionalizzare e avrebbe piuttosto la tentazione di lanciare un'offensiva totale, con le conseguenze che tutti temiamo. Una volta varcata la soglia del nucleare, quello che ci aspetta è l'ignoto ed è interesse del genere umano non svelarlo. il podcast di Rivista Militare, vi dà appuntamento al prossimo episodio.